Salut mon bébé, laisse-toi aller. Tu es mon cœur et je t'offre cette fleur, fleur. C'est la mia vita, ta ta ta ta lo. Dans lunedì, DJ. C'est la mia vita, ta ta ta ta lo. Dans lunedì, DJ. DJ. DJ, il mio amore per te è così sincero, non mi chiedere perché. Ti sto sempre dietro, sei arrivata mentre stavo morendo. Ora ci voglio credere a sto destino, ma devi sapere che dobbiamo andarci piano. Così nostra avventura durerà per l'eternità. Da quanto sei entrata nella mia vita, ringrazio Dio e Maria che ci danno sta possibilità. Sì, ringrazio Dio e Maria che ci danno sta possibilità. Sta possibilità, possibilità. Ehi voi? Ehi voi? Ecco digitalo. Ecco digitalo. Ecco digitalo. Enfin 25 ans, j'ai trouvé la force et le cran d'affronter cette vie à pleines dents. Car maintenant, je ne suis plus si seul. Non, non, tu es bien là, donna della mia vita. Il cuore batte, on fait un sens à toutes ces années. Après toutes ces journées, toujours tout seul à ramer. Mais dorénavant, c'est différent. Car je suis accompagné par toi, ma fée, qui rend ma vie si dorée. Enfin quelqu'un en qui je puisse compter. Tu es ma moitié, chaque soir quand je regarde le ciel si étoilé. Je te vois dans chaque étoile située au-dessus de mon nez. Elles ont toutes quelque chose de toi qui te ramène à chaque fois sous mon toit. Je t'aime mon ange, mia donna. Cette nuit reste avec moi, prends-moi dans tes bras. Mon bébé, laisse-toi t'aimer parce que hey, hey, gente, il mio mondo è cambiato. Hey, gente, non è più soltanto sogno. Ehi gente, ho trovato la donna che voglio. Ehi gente, mi dà quel che ho bisogno. Ehi gente, non è di ritorno. Ehi gente, non è mai partito. Digitalo non è di ritorno. Perché digitalo non è mai partito. Finalmente vivo e respiro. Finalmente vivo, vivo. Enfin je vis e respiro. Finalmente je vis, vis, vis. Finalmente vivo e respiro. Enfin j'ai trouvé le soleil de ma vie, celle qui illuminera mes jours et mes nuits. Dorénavant les nuages je les bannis. Ta splendide voix et tes yeux verts sont les premières choses qui m'ont séduit. Puis le reste a suivi. Alors un grand merci à toi mon bébé d'être ma chérie. En plus comme moi tu viens de ce beau pays. J'ai nommé l'Italie, l'Italie. Sono tornato da molto lontano, da dove si va quando da solo si sta. Ma ora è tutto finito, lei mi ha ridato il sorriso e soprattutto la vita. E voglio cantarlo fino all'ultimo socio che Dio mi darà nel tempo che passerà. Sono felice, ora vedo la tua luce che mi guiderà su queste strade dove ci saranno pasticci e bellezze. Ehi gente, il mio mondo è cambiato. Ehi gente, non è più soltanto sogno. Ehi gente, ho trovato la donna che voglio. Ehi gente, mi dà quel che ho bisogno. Ehi gente, non è di ritorno. Ehi gente, non è mai partito. Digitalo non è di ritorno. Perché digitalo non è mai partito. Finalmente vivo e respiro. Finalmente vivo, vivo. Enfin je vis e respiro. Finalmente je vis, vis, vis. Finalmente vivo e respiro. Finalmente vivo, vivo.